che su tutte le altre cose delle quali abbiamo parlato. Grazie maestri e buona stagione. Grazie a te e a voi tutti che ascoltate come sempre. Just make sure to arrange your composition intuitively, my friend. For as long as this day allows freedom of expression, we shall cook. Grande passione anche sportiva, parlando con Andrea Santo Anastaso, una coppia vincente per quanto riguarda anche quello che è un motivo di incontro sul palcoscenico, ma a volte in età più giovane probabilmente anche sul campo sportivo. Nicola disse: io sono più un rifinitore, infatti è in regia, però sa anche realizzare e come. Interessante questo spettacolo sulla mitomania, sullo stravolgersi completamente inventandosi un'altra vita. È un romanzare in maniera probabilmente portando dei motivi di dispersione, allo stesso modo di confusione. Io non conoscevo questa sensazione, che è chiaramente molto forte. Portarla a teatro è un'attenzione ulteriore alla società e al motivo di relazionarsi con il pubblico. Uno si perde, si inventa una vita totalmente diversa, un aspetto così fuorviante, ma che allo stesso modo è rivelatore di tante cose, come spersonalizzazione che viene messa al riflettore nello spettacolo di Nicola. Comunque avremo modo di presentarlo. Come presentiamo, ringraziando Vittoria De Carlo, prima semplicemente Vittoria per motivi confidenziali, ma è Vittoria De Carlo per ITC Teatro, è un settore giovanile molto molto preparato e carico di entusiasmo, anche un po' di timore a volte, ma è comprensibile. ITC Teatro stagione 2024-2025, la nostra conversazione procede e abbiamo il piacere di essere in compagnia con Vittoria De Carlo, direzione artistica teatro per le nuove generazioni, allenatore juniores, quindi. Ah sì, allenatore juniores, esatto. Diciamo che partiamo dai 3 anni sino ad abbracciare anche l'adolescenza, quindi è un ampio settore giovanile, esatto, chiamiamolo così. E quali emozioni e quali proposte per il settore giovanile ITC? Allora, quest'anno l'idea è anche quella di abbracciare diversi stili in maniera da far conoscere ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze, diverse tipologie dei tanti modi di fare teatro, quindi teatro con le parole, teatro senza parole, teatro d'oggetti, e mimo e quant'altro, danza, in maniera che poi possano magari da adulti e da adulte sviluppare il proprio senso artistico. Quindi le proposte sono, come dicevo, sono variegate. Partiamo da classici che sono classici rivisitati, come per esempio Il gatto con gli stivali del Teatro Verdi di Roma. Abbiamo Storia di pace e di libertà del Teatro dell'Orsa, che intreccia musica dal vivo con pianoforte e clarinetto, che fa non solo da sottofondo alla performance teatrale, ma che si intreccia con le parole e diventa essa stessa protagonista, la musica stessa diventa protagonista dello spettacolo. Filo conduttore musicale anche per lo spettacolo di Cosmocomico Teatro, l'Allabi, che attraversa vari generi musicali, dal jazz al blues, passando anche per samba e ritmi più delicati. Uno spettacolo delizioso visto al Festival Segnali a Milano, adatto proprio a un pubblico di tutte le età, consigliato a partire dai 3 anni, proprio anche perché la musica fa da filo conduttore ed è una modalità accessibile a tutti e a tutte. Abbiamo anche Plan B di Teatro Telaio, che a proposito di accessibilità, che è un tema che ci sta molto a cuore da tanto tempo e che ultimamente stiamo maggiormente sviluppando. Plan B, per esempio, racconta una storia dell'evoluzione umana assolutamente senza parole, attraverso la visione di oggetti che si trasformano, ed è uno spettacolo adatto a tutte le età, veramente a tutte le età, trasversale. È uno spettacolo adatto anche a persone straniere, così come adatto a persone affette per esempio da sordità, persone sorde. Insomma, uno spettacolo veramente di grande impatto. E quindi c'è un calendario stagione junior 2024-2025. Esatto, esiste un calendario, quasi tutti gli appuntamenti sono domenicali alle 16:30, c'è qualche variazione, per esempio abbiamo alcuni appuntamenti il sabato pomeriggio anziché la domenica, oppure il sabato e la domenica, quindi certo, qualche piccola variazione, però cerchiamo di mantenere le domeniche pomeriggio come appuntamento fisso con le famiglie. E questi ragazzi come si propongono? Spaventati, carichi di entusiasmo, curiosi o tutto ciò? Tutto ciò, ma direi che è veramente meraviglioso vedere il pubblico del teatro per le nuove generazioni, perché è molto variegato. Quindi abbiamo bambini e bambine che arrivano già carichi e entusiasti, bambini e bambine che magari arrivano per la prima volta e sono molto emozionati perché sì, entrano in un luogo che non hanno mai visto, di cui hanno sentito tanto parlare magari i propri genitori, e quindi è, come dire, hanno indossato l'abito buono per andare al primo ballo e quindi è divertentissimo. E in più abbiamo una cosa molto bella, che è un incontro intergenerazionale, che la giuria di nonni e nipoti, sì, perché dopo ogni spettacolo gli anziani e le anziane del centro Malpensa di San Lazzaro, insieme ai bambini e bambine del pubblico, si riuniscono intorno a tavolo un po' per esprimere quelle che sono state le emozioni provate durante lo spettacolo, che cosa ha più colpito, interessato, che cosa si aspettavano. E questi bambini e bambine di tutte le età, cioè anche i 3 anni, e vengono fuori delle cose meravigliose ed è veramente un momento magico di incontro tra 2 generazioni che sembrano molto distanti, ma che in realtà sono molto vicine tra di loro. Io ti ringrazio tantissimo e ti auguro buona stagione. Grazie, grazie mille. Ho detto che l'incontro intergenerazionale nelle varie relazioni e attenzioni di ITC Teatro sarebbe stato molto intenso. Così è ITC Teatro 2024-2025. Ringrazio tutti i protagonisti per la disponibilità. Seguiremo la programmazione con la rubrica In Scena e tra pochissimo si ritorna nuovamente sul palcoscenico di Radio Città Fujiko. Grazie ITC Teatro, grazie alla compagnia Teatro dell'Argine.